La notte tra l'8 e il 9 agosto il Senato della Repubblica Argentina ha respinto con 38 voti sfavorevoli, 31 favorevoli, 2 astenuti e un assente la legge sulla legalizzazione dell'interruzione di gravidanza fino alla 14ª settimana. Attualmente in Argentina è prevista la possibilità di praticare l'interruzione di gravidanza solamente per le donne che hanno subito uno stupro, il quale sia stato provato successivamente alla denuncia e nel caso in cui la madre sia in pericolo di vita. Il 14 giugno la proposta di legge era passata alla Camera dei Deputati con 4 voti di scarto. Il dibattimento e la votazione erano stati accompagnati da una mobilitazione in piazza che era stata chiamata sia dal movimento della campagna per la legalizzazione dell'aborto legale, sicuro e gratuito, che dal cosiddetto movimento Pro Vida, che invece è contro il diritto di poter abortire. Questa mobilitazione è stata convocata nella piazza del congresso, quindi fuori dall'aula dove sta avvenendo il dibattimento, e la piazza è stata divisa in due fisicamente con delle transenne antipanico. La parte appunto del movimento Pro Vida c'è stata una partecipazione abbastanza scarsa. Da parte del movimento per la legalizzazione invece c'è stata una vera e propria invasione, che aveva portato in piazza appunto quasi 1 milione di persone. Le due mobilitazioni sono state contraddistinte dall'uso di fazzoletti di colore diverso. Il movimento Pro Vida ha usato un fazzoletto azzurro in conseguenza alla diffusione già nei mesi precedenti dei fazzoletti verdi a favore della legalizzazione dell'aborto. Questi erano già presenti in piazza l'8 marzo. E diciamo che il fazzoletto azzurro è diventato come uno scimmiottare un uso diffuso del fazzoletto verde che soprattutto le compagne hanno usato in questi ultimi mesi per manifestare appunto il desiderio che finalmente questa diventi una legge. Gran parte delle persone che si sono mobilitate il 14 giugno e hanno passato tutta la notte in attesa dell'esito della votazione, che è stata seguita in diretta sugli schermi dei palchi che erano stati allestiti appositamente, ascoltando appunto le posizioni dei vari deputati che si esprimevano uno per uno prima poi di procedere alla votazione effettiva, che è stata realizzata alle 8 della mattina seguente. Le persone rimaste in piazza fino a questo momento sono esplose nei festeggiamenti come se appunto la legge fosse praticamente approvata, solo che questa era solo la prima parte di quello che poi sarebbe stato l'iter legislativo, ossia quello della votazione dell'8 agosto al Senato della Repubblica. Dalle prime ore del pomeriggio dell'8 agosto la parte riservata ai fazzoletti verdi, ossia lo spazio del centro della città che va dall'Avenida 9 de Julio Avenida Cachao, nella parte destra della piazza, guardando in direzione del congresso, fino all'altezza di Avenida Corrientes, quindi tra Rivadavia e Corrientes, è stata invasa dai fazzoletti verdi e dalle persone che appunto partecipavano alla mobilitazione in favore dell'approvazione della legge. Le condizioni meteorologiche non hanno di certo aiutato chi voleva scendere in piazza in questo pomeriggio perché ha piovuto ininterrottamente dalle 5 del pomeriggio fino alle 11 di sera con vento freddo e insomma, condizioni poco simpatiche per rimanere in piazza tutta la nottata. Da parte delle forze dell'ordine, tra l'altro, proprio come direttiva del Ministero degli Interni, che qua si chiama il Ministero di Sicurezza, diciamo che veniva l'indicazione di non farla andare troppo per le lunghe e quindi anche sono state fatte pressioni allo stesso Senato perché la votazione non avvenisse a mattina inoltrata. Per questo quindi è stata anticipata la convocazione e effettivamente la votazione c'è stata verso 2:30 di notte. A quest'ora in piazza rimaneva poca gente. La manifestazione si è conclusa con alcuni incidenti con la polizia. Sono state arrestate 8 persone, 7 persone di sesso maschile e una donna, per lancio di oggetti e per aver aggredito un giornalista in casi separati. La considerazione che si può fare è che la manifestazione dell'8 agosto ha visto una partecipazione, diciamo, numericamente inferiore in generale in piazza, anche a causa del clima, però fondamentalmente le proporzioni sono rimaste quelle dell'altra volta, se non maggiormente a favore di chi manifestava appunto per l'approvazione della legge, perché diciamo chi è sceso in piazza per il movimento Pro Vida era meno di un quinto rispetto al movimento per la legalizzazione. Essendo stata respinta la legge dal Senato, la legge per il momento viene accantonata, quindi non può essere ridiscussa per un certo tempo. Alcuni parlamentari hanno dichiarato che durante la riforma del codice penale, che è prevista imminentemente, verrà cancellata la penalizzazione in caso della pratica di un'interruzione di gravidanza, perché in questo momento in Argentina non è penalizzato solamente chi pratica come medico un aborto clandestino, se non anche propriamente la donna che ha abortito. La conquista di un diritto, quindi quella di non essere mandata in carcere dopo aver praticato un'interruzione di gravidanza. In più c'è una differenza tra una depenalizzazione e una legalizzazione, soprattutto dal punto di vista del fatto che lo Stato si deve prendere carico di poter far interrompere la gravidanza fino alla 14ª settimana dentro una struttura sanitaria pubblica, quindi con assistenza medica qualificata e in forma gratuita, mentre questo invece in caso della depenalizzazione non avverrebbe. È importante quindi che il movimento femminista e in generale la campagna per aborto sicuro, legale e gratuito sta portando avanti, è quello della coscienza del fattore di classe che sta dietro anche alla decisione di praticare un aborto in forma non sicura, perché questo è dato dalle possibilità economiche. Ovviamente chi può permetterselo deve pagare una clinica che raggira la legge in qualche modo, facendo figurare che si sta praticando qualche altra cosa rispetto invece a quello che poi è l'interruzione di gravidanza, solo che questo costa un occhio della testa che non tutti si possono permettere. Quindi a questo punto la coscienza del movimento femminista è soprattutto quello di dire una donna è in pericolo di vita quando non ha le possibilità economiche, quindi comunque è discriminata già a prescindere dal fattore di classe. Tra l'altro, un altro punto fermo della campagna è quello di far applicare la legge già esistente sull'educazione sessuale integrale nelle scuole, sia pubbliche che non, perché appunto una parte del problema è anche quello della scarsa informazione di cui lo Stato appunto non si vuole fare carico su come si arriva a dover interrompere una gravidanza, perché anche questo fa parte di essere coscienti del fatto che non è che questa sia una pratica che si fa con leggerezza, quindi comunque se si può evitare, a prescindere è meglio. Di conseguenza, questo è uno dei punti fermi, insieme anche a quello della maggiore accessibilità ai metodi contraccettivi e anche riguardo a questi, a una maggiore informazione che sia data, dalle strutture pubbliche e dallo Stato. L'aborto oggi in Argentina è possibile se una donna è stata stuprata. Questo, diciamo, sembra essere già una conquista, però non lo è, secondo le donne, perché quando si subisce uno stupro, in seguito bisogna fare una denuncia e bisogna anche che a livello medico sia provato che questo stupro sia avvenuto. E molte donne raccontano appunto che quando si trovano nella situazione di andare a fare una denuncia e poi anche un controllo medico, sono situazioni umilianti o comunque situazioni che che aggravano e di conseguenza alcune persone preferiscono evitarlo, quindi non sporgono la denuncia o sempre da quello che testimoniano le donne, in molti casi in cui loro hanno subito violenza e hanno sporto una denuncia, sembra che come si sono dovute giustificare loro dell'averla provocata o comunque viene ribaltato il piano, diciamo, di dovrebbe finire sotto giudizio. E questo è il frutto anche di una mentalità maschilista, propria della società patriarcale in cui viviamo, in cui viene fatto poi contro la legalizzazione dell'aborto un discorso moralista che preserva appunto, secondo chi lo proclama, il diritto alla vita, invece in realtà la situazione che si va a creare è quella di mettere in pericolo la vita delle donne e comunque di non lasciarle una libera scelta per interrompere una gravidanza indesiderata, anche se non fosse stata il frutto solamente di una violenza. In questo senso è determinante anche appunto la posizione della Chiesa Cattolica, che è contraria fermamente all'approvazione di questa legge, e tant'è vero che le province del Nord-Est, la stessa capitale federale, sono state i luoghi di provenienza dei maggiori voti a sfavore e sono proprio quelli più influenzati dalla Chiesa. Questo è stato anche evidenziato dal Papa, che ha dichiarato che in quanto argentino sarebbe uno smacco che proprio nel suo paese venga approvata una legge del genere, perché ricordiamo che in tutto il continente sudamericano la situazione appunto è questa, in cui c'è un ostacolo da parte dello Stato nel praticare in forma sicura l'interruzione di gravidanza entro la 14ª settimana. Il presidente Maurizio Macri invece non ha partecipato al dibattimento, nemmeno si è sbilanciato troppo nelle sue dichiarazioni, infatti ha lanciato una dichiarazione abbastanza sibillina, che era: qualsiasi sia l'esito della votazione, vincerà la democrazia. Quindi delegando alla decisione del Senato in quanto rappresentante del popolo, mentre il popolo che era in piazza sicuramente era maggiormente a favore della legalizzazione della legge.